La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. L'articolo 28 riguarda la responsabilità dei pubblici dipendenti. Anche questo è un principio di civiltà giuridica, nel senso che riconosce che i funzionari dipendenti di Stato, quando commettono nell'esercizio delle proprie funzioni dei fatti rilevanti ai fini penali, civili e amministrativi, ne rispondano. È un articolo questo importante perché tradizionalmente nella storia del diritto si è potuto pensare che invece chi agisse in nome e per conto dello Stato potesse andare esente da responsabilità. Così assolutamente non è, perché i funzionari pubblici rispondono e rispondono, ce lo dice la Costituzione, nella maniera più ampia possibile, secondo le leggi penali, civili e amministrative. Sappiamo infatti che il diritto non è unitario nei suoi rami, perché esiste il diritto civile che riguarda i rapporti fra cittadini, il diritto penale che riguarda la punizione dello Stato rispetto ai reati, il diritto amministrativo che riguarda il funzionamento della pubblica amministrazione e i rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni. Questi tre grandi rami del diritto possono essere rilevanti a diversi fini nel comportamento delle persone. Ecco allora che il funzionario pubblico risponde in ogni forma, perché risponde secondo le leggi penali, civili e amministrative. Anche qui il Costituente è stato netto e limpido in maniera più ampia possibile. E poi aggiunge una garanzia. La responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici. Che cosa significa? Che se io cittadino ricevo una lesione da un ente pubblico, da un pubblico funzionario, potrò chiamare a rispondere civilmente anche lo Stato. Spieghiamolo in parole povere. La responsabilità civile è una responsabilità esclusivamente e prettamente economica. Quindi il risarcimento del danno lo paga non solo il funzionario, ma lo paga anche lo Stato, lo paga anche l'ente pubblico. Questa è una garanzia, ovviamente, perché mentre il singolo funzionario può non avere i mezzi per risarcire il danno, lo Stato, che è altrettanto responsabile a fini civili, sicuramente potrà risarcire il danno. Questo tipo di responsabilità in diritto si chiama solidale, cioè quando ci sono più soggetti obbligati per lo stesso fatto. Ma a noi interessa che i cittadini ricevano una grande garanzia rispetto al comportamento della pubblica amministrazione. L'articolo 28 cosa ci vuol dire? L'articolo 28 ci dice anche la pubblica amministrazione può sbagliare. Se la pubblica amministrazione può sbagliare, risponde il funzionario e ne risponde a fini civili, penali, amministrativi e probabilmente anche a fini disciplinari, quindi dell'organizzazione interna dello Stato. Ma il diritto al risarcimento del danno, il diritto quindi a riavere un pagamento per l'ingiustizia subita da parte del cittadino, è anche a carico dello Stato. Quindi questa è una massima garanzia del corretto funzionamento della pubblica amministrazione.